ti sento, ma non puoi darmi problemi, forse non vuoi. Io di dubbi adesso neanche troppi e mai dovrei darti ascolto, temo che poi me ne pentirei. Oh. Oh. Non sei una voce, se tu sirena chiami e io ti do ascolto, ma non lo farò, lo sbaglio è solo il mio. Le persone che io amo sono tutte qua. È forte il tuo richiamo, ma non mi catturerà. Ne ho avute di avventure, non puoi tentarmi tu. Ma forse un viaggio nell'ignoto è ciò che voglio in più. Forse scoprirò quello che non so. Quello che non che vuoi? Tu non mi fai dormire ormai. Sei qui per distrarmi e per mettermi nei guai. O sai che il mio posto non è affatto questo e tu lo hai capito perché assomiglia a me. Il potere sta crescendo, non è semplice però. Se nel mondo immenso dell'ignoto andrò, forse scoprirò quello che non so.